necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Teatro, puro teatro. Fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità. Pièce teatrali femministe e lesbiche in radio. Perdona che non te crea, lo tuyo es puro teatro. E allora eccoci qui, buonasera, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, eccoci qui con un nuovo appuntamento della trasmissione Puro Teatro. Siamo già in collegamento e quindi la salutiamo subito con Elena Rossi, ciao. Ciao Daria. Ciao Elena. Ciao Silvi. Sorpresa. E allora la trasmissione di quest'oggi di Puro Teatro è dedicata a uno spettacolo scritto da te che si chiama L'Annuncio, di cui adesso parleremo, e sì, interpretato da Angela Soldani. Tu sei una drammaturga e lo spettacolo, sì, lo diciamo subito, l'abbiamo registrato la scorsa settimana, venerdì scorso, alla serata del Kesbilè, dove sì, l'avete portato. Ma sì, questo spettacolo ha una lunga storia. Eh sì, certo. Ce la racconti? Ha una lunga storia. Ma vuoi che ti racconti di cosa parla o... Sì. Sì? Sì, certo. So perché si chiama L'Annuncio. Perché si chiama luogo. L'Annuncio? Allora, si chiama L'Annuncio perché praticamente è la storia di una donna che si è persa e non si trova più. E quindi come fa per ritrovarsi? Mette un annuncio, mette un annuncio su un giornale ovviamente ipotetico, e in questo coinvolge un po' tutte le dimensioni dello spazio e del tempo nel tentativo di creare un annuncio per ritrovarsi. E quindi questo, che è un monologo teatrale, si svolge, no, scandito da questi annunci, marcato da questi annunci, attraverso il racconto di tutto ciò che questa donna ha perso nella sua vita, che è una vita ovviamente molto caotica. Quindi ha perso la testa, ha perso il lavoro, ha perso la fiducia in se stessa, il senso della realtà, ha perso le fidanzate, ha perso tempo ovviamente, eccetera eccetera, insomma tutte queste perdite. E ognuna di queste perdite ovviamente fornisce un po' il pretesto per fornisce l'occasione per la rievocazione delle tappe della sua vita, e che anche ovviamente la messa in discussione delle sue relazioni amorose, ecco. Quindi è un po' questo escamotage dell'annuncio e anche della perdita, è un po' una modalità leggera per immergersi in una serie di scenari che poi fanno parte, no, della vita un po' di tutte noi, ecco, per scardinare i luoghi comuni dei rapporti fra donne, dei tradimenti, delle gelosie, degli abbandoni, ecco. Perché è un po' questo, no, secondo me, il bello dell'amore, cioè proprio il fatto dell'ironia, del vedere la misura della perdita, insomma, è un po' qualcosa da affrontare con ironia, in modo da riuscire a superarla. Perché si tratta di uno spettacolo comico, lesbico, sì. No? Esatto, lesbico e ironico, comico direi, sì. E niente, poi alla fine questa protagonista rinuncia a ritrovarsi perché appunto ha scoperto che lasciar perdere il passato è un po', come dire, una premessa per andare avanti nella vita, per acquisire una nuova identità. Quindi niente, resta un piccolo problema che sarebbe come pagare questo chilometrico annuncio, ma vabbè, lo lasciamo perdere, ecco. Ne ascolteremo dei pezzi comunque adesso, sì, certo. Ne ascolteremo dei brani musicali, sì, brani, scusa, delle pièce. Quando è stato scritto questo pezzo? Quando l'hai scritto? Dunque, io l'ho scritto nel lontano 1995. Perché la cosa interessante è che appunto forse l'escamotage dell'annuncio è un po' uscito dalle abitudini delle lesbiche per incontrarsi, però il testo invece è assolutamente di un'attualità limpidissima, no? Sì, cioè diciamo che pur essendo appunto un testo che appartiene a un'epoca così, no, che può sembrare molto anche diversa dall'epoca odierna, poi ci sono dei meccanismi che rimangono uguali, anche perché insomma le storie sono sempre le stesse, i rapporti, i nostri meccanismi, quindi da certi punti di vista Angela dice che è un cult, che è un punto, no, che è un testo assolutamente sempre vero, ecco. Per me è stato divertente, interessante, a seguito appunto di aver visto lo spettacolo, poi parlare con alcune lesbiche che dicevano, ma ti, anche della mia generazione, voglio dire, ma ti ricordi che io e te ci siamo conosciute attraverso un annuncio su un giornale? E per me questa è stata una cosa incredibile. Sì, infatti c'erano almeno anche nei giornali di quell'epoca, adesso è più tipo Facebook, internet, eccetera, però all'epoca c'erano questi giornali con gli annunci appunto per incontrarsi. Sì, senti, questa pièce tu l'hai scritta e Angela Soldani, con cui ci collegheremo fra un pochino, l'ha interpretata. Sì. Cioè sì. In qualche modo è l'inizio anche, poi ne parleremo più avanti quando ci sarà anche lei, della vostra relazione, sì, certo, collaborazione. Sì. Vogliamo sentire, forse facciamo una, tu mi hai mandato anche la colonna sonora che fa parte dello spettacolo, e quindi io volevo mettere Missing You di Ovatones, e poi facciamo partire, diciamo abbiamo preso alcuni stralci con il primo annuncio, che parte da 5 anni, quando appunto perde la testa e poi perde la fiducia in se stessa, e poi il primo lavoro. Va bene, va bene. E poi ci ritroviamo qui ai microfoni. Io resto qui. Resta d'accordo. Lì. D'accordo. Ascoltiamolo insieme. A fra poco. Sì. Yeah. E allora questa è Alina delle Wibshima. E non Missing You come vi avevo proposto, e andiamo allora adesso ad ascoltare all'interno della trasmissione Puro Teatro il primo stralcio, il primo brano che abbiamo selezionato dallo spettacolo teatrale L'Annuncio di Elena Rossi con Angela Soldani. Oh, annuncio, annuncio, arreca la mia interrogazione a chi protende le orecchie in ascolto. Suona i campanelli, apri le porte, componi i numeri telefonici, distribuisci volantini, attacca manifesti, invia fax, email, sms, per tutta l'estensione del globo. Ma ora non esageriamo. Potrei cominciare dall'inizio e raccontarvi di come mi sono persa piano piano. Tutto è stato quando avevo 10 anni e ho perso la testa per una mia compagna di scuola. Si chiamava Letizia. Tutto un programma. Un giorno, in un suo slancio di generosità, mi ha regalato una caramella, ma poi, subito dopo, abbiamo iniziato a litigare. Lei ha iniziato ad urlare. Ah, ridammi la mia caramella! No, Letizia l'ho già ingoiata. Sputala subito! Oh, non c'è stato verso, ma ha fatto la lavanda gastrica nel gabinetto della preside. A 15 anni ho perso la fiducia in me stessa. Mia madre era solita portarmi a spasso con i miei fratellini in carrozzina e la gente che si fermava li guardava e diceva: ma che carine ai fratellini. Però anche il maschietto, adesso, se per caso qualcuno mi ferma e mi fa: scusi lei, ma è un uomo o è una donna? Io gli rispondo: sono un F2M. Lo so che è politicamente scorretto, ma vi giuro che ci rimangono di sasso e qualcuna perde alcuni sensi. A 20 anni ho perso il mio primo lavoro. Lavoravo in quel ristorante a Livorno ed ero fissata, ma fissata, sulle olive. Mi chiamavano Olivoli, cantante preferita, Olivia Newton-John. Personaggio dei fumetti preferito, Olivia di Braccio di Ferro. La sera, prima di andare a dormire, mi conficcavo 2 olivine nere nelle orecchie e la mattina, appena sveglia, le inzuppavo direttamente nel caffè latte. Conoscete, no? Le proprietà curative delle olive. Ma sono uno degli elementi essenziali della medicina alternativa. Fanno benissimo alla pelle. E infatti si dice che ha la pelle liscia come un'oliva o che sei verde come un'oliva. Io le olive le mettevo dappertutto, sul piattino della tazzina da caffè al posto della bustina dello zucchero, nel bicchiere della sambuca al posto della mosca. E ovviamente il ristorante ha chiuso, anche perché quando sono venuti quelli dell'ispezione sanitaria hanno trovato il locale tutto pieno di noccioli. Era una gara generale allo sputo. A me pasta alle olive, olive, olive! A me coniglio colmo con le olive, olive là! Mi hanno licenziata dopo avermi fatto ripulire tutto il locale. Che provinciale! Non hanno capito che l'oliva avrebbe fatto furore. You fire, fire, shoot. my conversations don't include you. Always was include you. Annoyed my friend, you hurt my feelings, and now you're gone, I'm glad. I simply don't like you anymore. I don't care who's kissing you. I don't care who's kissing you. I don't care who's kissing you. E allora sfumiamo Ovatons Missing You e torniamo al telefono con Elena Rossi, la nostra amata e preferita drammaturga lesbica. Eccoci. Eccoci qua. Senti, allora, è iniziato, è la prima cosa che hai scritto, l'annuncio? Sì, sì, l'annuncio. No, veramente, veramente prima avevo scritto un'altra cosa, un'altra opera. Avevo scritto un'opera che si intitolava Pianeta L, perché tutti i personaggi di questo di questa pièce si chiamavano con la L. Quindi Lucilla, Lisa, Luciana, eccetera eccetera. Era un po' un'opera di fantascienza, parlava di un futuro lontano nello spazio e nel tempo, che però aveva molta somiglianza con l'epoca odierna, perché era un mondo completamente lesbico. Guarda, c'erano lesbiche chirurghe, lesbiche neurobiologhe, lesbiche astronaute, come ora, no? È presente? E solo che quest'opera praticamente non l'ho mai rappresentata, perché per rappresentarlo ci volevano 10 attrici. E quindi ti puoi immaginare che trovare 10 lesbiche disponibili a recitare, no? Non è una cosa proprio molto molto facile. Non è mai troppo tardi, eh? Eh? Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, no, è andata così che ho, praticamente io, come sapete, vivo a Pisa, quindi ho cominciato, all'epoca vivevo in una casa molto piccola. Non so, saranno stati poco più di 20 metri quadri e ho cominciato a fare i provini per trovare persone che potessero recitare. Quindi avevo la casa piena di lesbiche ovunque. Bella scusa. Da, sotto il tavolo, dal bagno, che mangiavano, bevevano, si stravaccavano sul divano, così. E poi è sorto anche un problema, perché indovina un po', volevano tutte fare la parte delle protagoniste. E quindi no, quella la voglio fare io, no, la voglio fare io, insomma, guarda, una litigata continua, e praticamente il progetto è fallito miseramente ancora prima di cominciare. Senti, no, poi l'abbiamo fatto. No, l'abbiamo fatto perché dunque nel 2004 mi hanno invitato al campo lesbico di Agape a tenere un seminario di teatro, e lì avevo a disposizione un sacco di donne, quindi ne ho appunto fatto un seminario con 10 donne e lo abbiamo messo in scena. Finalmente è stata un'esperienza molto divertente, perché ovviamente in 3 giorni di campo non è che tutte abbiano avuto il tempo di imparare le parti, okay. Però comunque è venuta una cosa molto divertente lo stesso, ecco. Senti, questo, e poi che altro hai scritto? Dunque, dopo l'annuncio, che era del 96, appunto nel 98, 2 anni dopo, ho scritto La Batongheide. L'avete visto voi? Sì. La Batongheide? Sì, sì, sì, ho visto. Sì. Un po' di anni fa. Sì, esatto. Che però pure quello ha girato tanto, l'avete portato tanto in giro, no? Sì, sì, sì. Dunque, praticamente è un poema epico lesbico in ottave di endecasillabi a rima baciata. tanto per dire. Una follia. Ecco, sì sì, è veramente così, sono tutte endecasillabi. E parla di questa batonga, no? La batongheide, che fa un po' un verso al poema epico. Questa ardita cavaliera, che poi non è ardita per niente, insomma, ardita per, si fa per dire, che 3500 anni fa ha avuto un conflitto con la maga Catonza, che le voleva rubare la fidanzata, la bella Fatonza, e quindi niente, è stata poi rinchiusa in un sarcofago, e poi dopo appunto 3500 anni Batonga è resuscitata e ci racconta la sua istruttiva storia su come si fa a combattere chi ti ruba la fidanzata con armi impari. Senti, in che sì. tipo di spazi portate questi spettacoli? Dunque, quando abbiamo cominciato, cioè tieni presente che era la fine degli anni 90, mm-hmm. e quindi allora intanto ti dico che l'annuncio nel 96 appunto è stato rappresentato per la prima volta all'inaugurazione del Festival Immaginaria, quell'anno era a Casalecchio di Reno, quindi in un teatro con 300 posti a sedere, è stato veramente molto molto bello. E dopo quella rappresentazione siamo andate un po' dappertutto, ci hanno chiamato ovunque, tutti i gruppi lesbici, quindi siamo state non so, a Verona, a Bologna, al Buon Pastore a Roma, a Brescia dalle donne di Pianeta Viola, a Milano, Padova, Siena, Firenze. Poi tieni presente che ci sono state ben due rassegne di teatro lesbico in Italia, sempre in quegli anni appunto, sempre negli anni 90, quindi abbiamo girato un po' tutti i luoghi politici lesbici che c'erano a quel tempo, ecco. Ora è un pochino più difficile, diciamo, però insomma io mi piace, ecco, andare sempre un po' in questo tipo di luoghi, cioè se c'è un evento lesbico in Italia quasi sempre c'è un mio spettacolo teatrale, insomma, mm-hmm. come per esempio, non so, alle 5 giornate lesbiche di Roma del 2010, sì. no? Sì. Anche perché ero io la responsabile del teatro, quindi è chiaro che poi ho fatto. Vabbè, insomma, questo è un periodo. Ecco, comunque questi sono gli spazi. Mm-hmm. Io ti propongo adesso di sentire un'altra selezione di una decina di minuti, e così poi ci andiamo a collegare con Angela, che avvisiamo prontamente. Perfetto. Di quando la chiameremo, va bene? Sì, allora, sarebbero praticamente l'annuncio numero 4 e l'annuncio numero 5, ovvero la perdita della bussola, il senso della realtà, delle fidanzate e così via, giusto? Benissimo. Eccoci, sì. Allora facciamo partire direttamente. Va bene. Oh! Annuncio! Rincasa le tracce! Cercami! Con il pannocchiale e con il telescopio! E se mi trovi, sì! Fai sentare azioni! In alfabeto Mars! In alfabeto Mars! D'accordo. Vanno bene i segnali di fumo. Beh, in effetti, potrei anche cominciare dalla fine. Fino a 30 anni si crede che il problema fondamentale della vita siano i rapporti. Si crede. E come se ci si crede? Dopo i 30 anni il problema principale diventa come non avere rapporti. A me mi hanno sempre lasciata con le motivazioni più assurde. Non sai cucinare, sei sempre stolite. Ma sono sborsato miliardi per portarti nei ristoranti più lussuosi e famosi d'Italia. Shh, piano, zitta, fai troppo casino mentre facciamo l'amore. Mo se all'inizio ti piaceva così tanto. Però devo dire che gli abbandoni fanno riflettere molto di più degli innamoramenti. Anche perché se dici che stai bene, con il sorriso ebete sulle labbra, non ti si fida nessuno. Ma appena dici sto male, sto tanto male, c'è subito un coro d'avvoltoie pronto ad infilarti il rostro nella piaga. Sì, perché tu, perché lei, perché voi. Io ho sviluppato una sorta di sistema immunitario contro gli abbandoni, che però deve essere ancora messo a punto, anche perché, pur evitando ansie e angosce, io scarico in malattie psicosomatiche. Ho sofferto di tutte le manifestazioni psicosomatiche possibili e immaginabili: asma, gastrite, colite, stichezza, mal di vita, di reni, di fianchi, quello di San Vito, quello del cuore, calli, sabrossi, e poi della sindrome del Gesù, Gesù, che dolore! Dell'infezione recidiva dell'arrivo tardi, anche se potrei essere puntuale, del virus pernicioso, del guai a quell'imbecille che si ritrova sulla mia strada, e di una forma batterica aggravata del oddio, cosa mi metto questa sera? Una delle mie ex fidanzate, anche lei era ipocondriaca, ed eravamo solite spartirci con affetto tutto il set invernale di maldigolini, raffreddorini e influenzi. Ma alla fine era diventata una gara chi stava peggio. E così abbiamo deciso di lasciarci per una questione di sopravvivenza. E a me sono venute le emorroidi. È così poco fine. O come si fa a dire la mia donna mi ha lasciata e a me sono venute le emorroidi? Inoltre è uno di quei mali invisibili. Avrei preferito 100 volte, che ne so, un bell'herpes sulle labbra. E allora sì che avrei potuto lamentarmi con le amiche, mostrare la deturpazione del mio bel faccino, metafora dell'impossibilità a comunicare, delle strazianti carenze affettive, del fuoco ardente, della passione depressa che continuava a bruciare. Invece la mia vita era di un candore ineccepibile. Mangiavo in bianco, mi vestivo di bianco e passavo tutte, ma proprio tutte le notti in bianco. E non sapevo più se era per il dolore della fine o se per il tormento del posteriore. Con il megafono metti i banchetti per le strade, raccogli le firme, fa una petizione, vota sta risoluzione di Strasburgo. Alle disunioni incivili non ci pensa nessuno. Ho sperso le mie tracce dappertutto e adesso è diventata una vera caccia al tesoro. Il mio tronchetto della felicità ce l'ha la mia prima ex fidanzata. La mia camicia da notte con le pecorelle ce l'ha la seconda. Il mio quadro della regina delle Amazzoni ce l'ha la terza. Che investimenti! Sono finita nei garage, negli scantinati, nelle soffitte. ma ci sono rimasta veramente di stucco quando io ho visto la mia maglietta del mio primo Orgoglio Lesbico in vendita a Porta Cortese. Come l'ho riconosciuta? Ma dalle patacche dei noccioli delle olive. Però mi sono ricomprata e a metà prezzo. A parte quella, non ho trovato più niente. La tragedia è stata quando io ho cominciato a perdere i pezzi delle altre. Un giorno la mia fidanzata mi affida il suo cane, un bobtail, sai, quello con tutto il pelo nel col naso, che non si staccava un attimo da te. Oh, ho perso anche lui e lei mi ha lasciata. È stata veramente inutile che io andassi tutte le notti sotto la finestra di camera sua a ululare. Au, au, se non te ne vai ti sparo con il fucile a pallini. Au, au. Sì, dai, il cane l'ho ritrovato, lei, mettendo un annuncio sulla rivista specializzata Can che abbaia, non si perde. Però me non ha più voluta e quindi mi ha lasciata. Poi ho perso le fidanzate tutte intere, tutte. Quella del cane, vabbè, per via del cane. Quella psicosomatica, perché le era venuto un fungo sulla pelle, no? Allora, la sua omeopata le aveva consigliato come cura di fare petting. Ecco, lei ha fatto petting praticamente con tutta la Toscana, compreso l'arcipelago. Fidanzata numero 3 mi ha lasciata perché ho perso un orecchino di fidanzamento. Mi è caduto un tombino. Io ho messo l'annuncio sulla rivista specializzata infognatissima. Ma perché non l'ho trovata? E lei mi ha lasciata. Fidanzata numero 4, boh, ha scomparso in circostanze mistiche. Chissà che è diventata queer. Fidanzata numero 5 mi ha lasciata per seguire un corso di yoga, di shiatsu, di tai chi, si è presa uno shih tzu e si è messa con fidanzata numero 4! E che dire? Che dire di fidanzata numero 6 che è passata dallo stato del... Oh, Dio! Come ti amo! Allo stato del... Dio, come non ti sopporto! Nel giro di 2 settimane! Terrore! Del resto, sì, è vero. Io non sono mai stata molto forte in tecnica di seduzione. La mia formula preferita è... Vieni, baby, che ti porto sulla canna della mia bicicletta. E ti sussurro così nei dolci nelle orecchie. Un giorno la mia fidanzata mi fa... Giura che non porterai nessun'altra donna al di fuori di me sulla canna della tua bicicletta. Eh? Sì, te lo giuro. Me lo giuri? Sì, ti ho detto che te lo giuro. Poi mi ha sgamata. Dice che ha riconosciuto che l'impronta sulla canna della mia bicicletta non era quella del suo culo. Ma che sculo! Comunque mi ha lasciata. Motivazione dell'abbandono, impronta esogena di culo su canna. Allora, diamo il benvenuto a Angela. Ciao Angela Soldani, ciao. Ciao, ciao, sono qua. Grande. Ti sento. Ciao, ci sentiamo, ciao. Bene. Ti abbiamo appena sentito, abbiamo mandato qualche stralcio dall'annuncio. E allora io avevo, chiaramente, Elena, ci sei ancora? Sì, io sì, eccomi. Però credo di non sentire Angela. Non vi sentite fra di voi? Ai, pronto? E così? Pronto? Così vi sentite fra di voi? No, non lo so. No, io non sento niente. Ci sei? Sento te. No. Vabbè. E vabbè, allora direte facciamo delle cose. Una conversazione tra sorde. Direte delle cose all'insaputa l'una dell'altra. Elena è in Pisa, c'è il Pisa centro e io sono in Pisa country, questa è la differenza, capisci? Cioè la lesbica di città e la lesbica di campagna, e queste sono questa è la differenza. Come le topoline. Io avevo, come dice, sento soltanto un rumore di sottofondo molto basso. Parla della differenza fra le lesbiche di campagna e quelle di città. Allora, ecco, io ho la domanda che a questo punto farei, visto che è appena arrivata fra noi, ad Angela, e poi passerei la parola ad Elena. La vostra relazione, come nasce, come ce la racconti, visto che appunto la vostra collaborazione fruttuosissima nasce proprio con questo spettacolo, L'Annuncio, e poi va avanti fino ad oggi. Eh sì, infatti tutto questo risale al mitico 1996, quando io frequentavo un locale gay lesbico dietro la casa di Elena Rossi, ma io non conoscevo Elena Rossi. E un giorno mi dissero: vieni, ti presento una mia cara amica che si chiama Elena. Sono andata su, abbiamo parlato, chiacchierato, ci siamo state simpatiche, e poi io un giorno gli ho detto: ma potresti scrivere per me un monologo, visto che la Elena si dilettava di letteratura e di teatro lesbico, e nel giro di due giorni me l'ha fatto, e quindi poi me l'ha portato, capisci? E tu facevi già l'attrice? Eh no, ho iniziato praticamente con lei, con lei, sì. Sì, sì, mi ha vista molto, come dire, disposta a sperare tutta una serie di cose, quindi fu lei che scoprì il mio talento. Okay, e perfetto. Quindi da lì è iniziato il nostro percorso. E continuate ad andare d'accordo. È diventato un sodalizio. E questo sodalizio continua a reggere? Eh sì, continua a reggere, lei mi sopporta. Sopporta i miei ritardi, sopporta il fatto che io ogni volta prendo la macchina e percorro avanti Andrea, la mitica Fipili, e facciamo le prove, ci scambiamo le idee, e così continua, con grande divertimento, volontà, entusiasmo. Quindi le dai anche delle soddisfazioni, anche tu, da parte tua? Ma lo spero, questo lo devi chiedere a lei, insomma, se ancora mi sopporta. Se ancora mi sopporta, però questa domanda la devi rivolgere a lei. Faccio con piacere, con grande gusto, mi piacciono tantissimo i suoi testi, e quindi fortunatamente ancora sceglie me, insomma. Senti, ti piace far ridere le donne, le lesbiche? Sì, assolutamente sì, mi piace, sì, sì, mi piace moltissimo le donne, le lesbiche che ridono, e che ridono di sé, ridono delle proprie tragedie, sì, è proprio... Praticamente è il mio obiettivo. È il mio obiettivo. Riesco più a far ridere, insomma, a far piangere, mi sembra. No, non mi appartiene molto. E ti sei mai chiesto che cos'è la comicità lesbica? Se esiste? La comicità lesbica è la capacità di trasformare le proprie disgrazie in brana tragedia della vita, in una risata, e nel fatto volare la forza per andare avanti e per passare ad altro. Più che altro, ecco, diciamo, mi piace la comicità che trasforma la fine dei rapporti, piuttosto che i problemi di amicizie, piuttosto che tutte le come dire, difficoltà di trovare un lavoro, di mantenere un lavoro, che insomma mi sembra ormai un tema molto comune, e quindi ancora, diciamo, troviamo la forza e la voglia di trovare quello step, quel salto che ti fa andare avanti. E ridere delle nostre sfighe, praticamente. E ridere delle nostre sfighe, certo. Certo. E c'ho tante, quindi ne offro anche, come dire, un bacino di argomenti da poi portare in scena. Senti, va bene, allora adesso passerei a fare forse più o meno le stesse domande ad Elena. Sì, quindi ci salutiamo. E quindi che dici? Ci vogliamo salutare? Io so fra l'altro che tu sei in una situazione... Io ti sto telefonando dall'azienda, perché a parte fare l'attrice io faccio, come dire, l'avvitatrice, e in questo momento mi sto... sono ancora dentro l'azienda metalmeccanica dove io lavoro, capisci? E quindi devi tornare alla catena. Sto parlando tipo... Da dove stai? In che punto ti sei? In un anfratto come ai tempi della scuola. Sotto quando si fumava banco, le sigarette di nascosto. Al bagno, chiusa in bagno. Qualcosa del genere, sì, sì, qualcosa del genere. Ok. Va bene. Ok, tesoro. Allora ti ringraziamo molto di essere riuscita a rubare questi minuti. Al duro lavoro, e mi dispiace che tu debba ritornare lì, ma ci vedremo, abbracceremo presto. Con piacere, un grande bacio, un grande abbraccio. Ciao. Ciao. E allora, sì, purtroppo abbiamo dovuto salutare Angela Soldani era con noi, e Elena, tu ci sei? Sì, io ci sono sempre, sì. E sei riuscita anche ad ascoltare attraverso lo streaming? Ovviamente ho alzato il volume della radio, era abbastanza facile. Non ci avevo pensato prima e l'ho sentita, sì. Senti, comicità lesbica, faccio a te questa domanda. Sì, beh, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Angela, cioè intanto ti dico che per me, come per lei, insomma, la comicità è importantissima, proprio perché la maniera migliore, ecco, per uscire dalle tragedie, dal piangersi addosso, che è una, no, caratteristica che a volte, da cui a volte ci facciamo prendere, è proprio quello di volgere le tragedie in riso, ecco. Quindi io ci credo moltissimo nell'ironia come proprio strumento, e credo anche nella specificità dell'ironia nostra, della comicità lesbica, insomma, nel senso che quella di cui io faccio uso, penso, nelle mie opere teatrali sempre, è una ironia abbastanza autoreferenziale, no? Cioè un modo in cui io dichiaro di appartenere alla comunità, e quindi posso suscitare il riso sulla comunità proprio perché le appartengo, no? È chiaro, mi sono spiegata? Sì, certo. Che la critica, cioè, non è una critica che viene da fuori, ma è chiaro che è autocritica. Esatto, attraverso l'ironia io praticamente cerco di invitare le persone a riflettere su condizioni, meccanismi, pregi, difetti moltissimi che contraddistinguono la nostra comunità. È per questo che poi le donne ridono, oppure vengono da me alla fine dello spettacolo e mi dicono: ah, io mi sono identificata in quel personaggio, oppure è successo anche a me, perché è un po' un filtro, l'ironia, attraverso il quale le esperienze individuali diventano collettive, universali, no? Condivisibili da tutte. Senti, ma quindi proprio nel processo di scrittura parti anche da delle cose che ti succedono, che succedono ad altre intorno a te, per poi creare le battute, gli sketch e così via? Sì, cioè sono ovviamente delle opere in cui c'è sempre abbastanza l'elemento autobiografico, e anche, cioè, nel senso, si parte da esperienze lesbiche, non per forza che sia successo tutto a me, però comunque di amiche, di Angela, di persone che conosco, e però è anche molto importante, questo ci tengo a dirlo, cercare di allontanarle dalla realtà attraverso lo strumento dell'ironia, perché se non le allontani non fanno ridere, capito? Come punto di partenza c'è comunque la mia identità lesbica. Il mio percorso politico è stato sempre nel movimento lesbico, quindi io scrivo di lesbiche e per le lesbiche. Questo è un po' il mio atto di amore nei confronti della comunità, ecco, perché mi sembra che ci siano poche persone che lo fanno, no? E quindi, appunto, mi piace di dare il mio contributo così. Bello, grazie. No, davvero, io ci credo nella specificità della nostra identità, nel senso che penso che si possa crescere davvero confrontandosi con le proprie simili. Senti, questa cosa che dicevi dell'allontanare per far ridere, no? È anche il motivo per cui alcune tue opere sono, cioè, hanno un'ambientazione fantastica, fantascientifica, diciamo. Sì, cioè a volte anche il fatto di essere ambientate come appunto Pianeta L in un futuro che non è futuro, perché poi era riconoscibilissimo come presente, però di dire, diciamo, che in maniera fittizia sono ambientate in un futuro, è un modo per me per immaginare appunto un mondo possibile dove le lesbiche siano completamente a loro agio. Ecco. Mm-hmm. Anche lo spettacolo che hai portato alle 5 giornate, di cui non mi ricordo il titolo, esatto. Scusami, però Mastro ITS, ecco. Sì. Quello però aveva un'ambientazione fantasy, le Amazzoni, sì, le streghe, sì. Le... esatto, fate, Amazzoni, streghe e astrologhe. Quello era più un percorso all'indietro, perché quello spettacolo lì è, non so se vi siete mai chieste dove è andato a finire il matriarcato, ecco, quello spettacolo vi dà la risposta certa, sicura e definitiva. Dove sono andate a finire le nostre antenate femministe radicali, appunto, le fate, le amazzoni, gli streghi, gli astrologi? Questo testo ci dà la risposta, anche con prove archeologiche e documentali, quindi insomma. Fantastico. Senti, prima di mandare l'ultimo e insomma concludere questa trasmissione, l'ultima parte dell'annuncio, volevo chiederti perché le olive fanno ridere? Perché allontana. Bella domanda. Perché bella domanda. Riascoltando per trovare appunto alcuni stralci, ho notato che sulle olive ridono tantissimo, per questo poi mi è sembrato importante prendere appunto l'inizio sulla perdita del primo lavoro, perché appunto lì c'è la genesi delle olive. Beh, questo è un po', diciamo, uno strumento del mestiere, quindi come un cuoco non svela mai i segreti della ricetta, non dovrei dirtelo, ma via, te lo dirò lo stesso. Allora, non è importante ovviamente che siano le olive, l'importante è il fatto del costruire un tormentone, capito? Quindi tu cominci a seminare olive all'inizio e poi quando le rievochi fai ripensare le persone a queste olive e quindi le persone ridono, capito? È il tormentone teatrale. Ah, è un trucchetto, basta lega, comunque un trucchetto per fare ridere. Interessante. Senti, allora direi che ci salutiamo prima di ascoltare appunto la fine, che poi è proprio abbiamo selezionato proprio la fine dell'annuncio per per, come dicevi all'inizio, far sentire come e se e come non conviene poi alla fine, o comunque si arriva a che non conviene ritrovarsi. E, nel salutarti, chiaramente ti invito in radio, so che prima o poi ci riusciremo a fare una cosa insieme in diretta da questi microfoni. Che bello, no? Sì, certo. So che ci avevate un po' pensato per l'8 marzo, ma insomma è... E poi eravamo a Brescia l'8 marzo, siamo andate da Pianeta Viola, Se ci organizziamo per tempo, magari ci si riesce una volta a fare qualcosa in diretta. Va bene. Ti ringrazio, veramente. Grazie tanto. A voi. E grazie. A presto, un abbraccio grandissimo. Un abbraccio. Anche a voi, anche a te, a Silvi. Ciao Elena. Ciao, a presto. Ciao. Accendi i fari, i lampioni, i riflettori e guarda un po' se mi vedi. Ma mi vedi? Non mi vedi? Ho perso la mia libertà e pensare che non me ne sono neppure accorta. Del resto l'amore cieco perché ha perso gli occhiali. E in men che non si dica, mi sono ritrovata in una coppia fusionale. Tesoro, tu cosa prendi? No, tu cosa prendi? Ah, io prendo quello che prendi tu. Allora, cosa prendiamo? Che ne dici di un primo? Ma solo se sei d'accordo. E se manca a te, amore. Sì, un primo. Ma a me non va tutto. Facciamo un primo in due. D'accordo. Ti imbocco io o mi imbocchi tu? Triplo. Tesoro, hanno suonato alla porta. Vado io. Ma no, mia cara, vado io. Ma no, dolcezza, vado io. Allora, mia adorata, andiamo tutte e due. Sì, ciao. Ci chiamavamo Pixie Dixie, alias Tipsy Topsy. Che carine. Ah, la libertà è sempre così. Quella che non ce l'ha, la togli a quella che ce l'ha. Poi, quando quella che non ce l'aveva l'ha tolta a quella che ce l'aveva e che ora non ce l'ha più, quella che non ce l'aveva non è che ora ce l'ha, ma vedendo quella che ce l'aveva che non ce l'ha, non la vuole più. Brave, complimenti. E poi io devo mettere gli annunci. Ma io mi sento soffocare se mi dicono: che, mi telefoni stasera? No, ma non ti rendi conto che questa è una richiesta bella e buona, un ricatto, in piena regola. Io il telefono se capita, quando capita e se per caso mi ritrovo una rotella con i numeri sotto le dita, che tanto adesso cominciano a essere tutti digitali. E i rapporti fusionali sono quelli in cui si perde di più. Il mio set di asciugamani viola con la scritta lei, e lei che ce l'ha secondo voi? Pixie, alias Tix. Ci siamo divise tutte qua mente, eh? Lei all'autoradio? Io le casse. Lei alla tenda da campeggio, io c'ho i picchetti. Lei c'ha la gatta e io c'ho la lettiera. Oh, annuncio, annuncio. Elimina il tempo e lo spazio. Abbatti le montagne. Prosciuga gli oceani e soprattutto ricordati, sì, ricordati. No, no, no, no, no, guarda, no, guarda, non è il momento, non è il momento. Cioè, ti metti con una che ti lascia perché non è il momento. Un momento. Per me quello era il momento, solo che non lo era per lei il momento. Poi, quando è giunto il suo momento, ciao bella! E non succede mai, dico mai, di incontrarsi quando per tutte e due è lo stesso momento. Scusa, ma per te che ore sono? Le tre? No, no, guarda, per me sono le cinque. Hai visto? Non è il momento! Ragazze, sintonizzatevi telefonando all'ora esatta della telecom o collegandovi col radio Greenwich. Che perdita di tempo. E non vi ho detto di quelle volte in cui io ho perso la pazienza con la mia fidanzata che soffriva della sindrome del... Oddio, cosa mi metto stamattina? E passi, stai lì, leggi il giornale, bevi il caffè, ti mangi, che ne so, due olive. Tempi da record per la scelta delle scarpe che dovevano essere in tono con il cinturino dell'orologio che a sua volta andava abbinato alla cintura dei pantaloni. Calcolato che lei possedeva 30 paia di scarpe, 20 orologi e 30 cinture, le opzioni erano 180. E dato che ogni combinazione richiedeva circa un minuto per essere indossata, lei si alzava alle 6 del mattino per essere in ufficio alle 9 davanti casa. Senza contare che a me restavano 29 paia di scarpe, 19 orologi e 29 cinture, che quella mattina fine, non avevano incontrato il suo gradimento da rimettere a posto. Ho perso la dignità. Sono andata a Lesbos in vacanza e l'unica eterosessuale dell'isola l'ho trovata. Oltretutto era francese di Aix-en-Provence. Ma era uno schianto. Ogni volta che mi diceva bonjour ma chérie, io mi sentivo morire. Tutto il tempo con le amiche a dire bimbe, eh? Secondo me è. No, guarda Angela, non è. Ma sì che è. E non era. Non era per niente. Ho perso la scommessa. Ma comunque non mi sono persa d'animo e le ho scritto una lettera. Gentil, mademoiselle, je suis un militaire d'Aix-en-Provence et les Sans. Dès que je l'ai vu, je me suis innamoré de vous. Faites-moi le plaisir de me dire votre adresse. Comme si, comme ça, j'écrive à votre père et je lui demande votre petite main. Merci. Il fascino della donna in uniforme non ha funzionato. Mi ha denunciata come disertora e mi sono ritrovata in niente non si dica in caserma. Aix-en-Provence. Ma dov'è Aix-en-Provence? Oh, annuncio, annuncio. Ma se mi ritrovassi in fondo, ma che me ne farei di me? Forse non mi piacerei più. Meglio perdersi. E festa finita. Dream, dream. Pronto? Cosa? Come? Mi avete ritrovato? E come sarei? No? Con due olivine nel naso? Sì, sono io. Corro a prendermi. Come sarebbe a dire devo pagare l'annuncio? Come sarebbe a dire mille euro a parole? Oh, grande madre, ma siamo sicuri che sono io. Grazie. E allora concludiamo questa trasmissione con gli applausi allo spettacolo L'Annuncio, scritto da Elena Rossi e interpretato da Angela Soldani. Qui si conclude anche la trasmissione di questa sera di Puro Teatro. A fra pochissimi minuti la sigla. Si conclude anche il martedì autogestito da femministe e lesbiche a martedì prossimo. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Teatro, puro teatro. Fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità. Pièce teatrali femministe e lesbiche in radio. Perdona che non te crea, lo tuyo es puro teatro.